Right. Lasciatelo qua questo, che è così. Seconda parte, passa dal inquadramento concettuale di Antonio. Noi ci occupiamo appunto di portare la testimonianza di alcuni laboratori in cui utilizziamo gli strumenti artistici, in pratica io soprattutto disegno la pittura e Laura la parola in teatro, per fare in modo, per prendersi cura delle persone in una sorta di arte terapia, dove terapia vuol dire prendersi cura e arte, lo sottolineiamo qua, con la minuscola, cioè l'utilizzo di metodi artistici, in modo tale che le persone possono esprimersi, possono avere delle grammatiche alternative per esprimersi. Per esprimersi con le parole, per esprimersi con le immagini. Diciamo che il modo di vedere il mondo di alcune categorie di persone, soprattutto io ho esperienza con i bambini e i ragazzi, con le persone diagnosticate con problemi psichici e diciamo con le persone malate. Noi pensiamo che se noi riusciamo a metterci negli occhi di queste persone, nel capire, nel vedere come loro vedono il mondo, probabilmente queste categorie di persone, i bambini, le persone con disturbi mentali e i malati possono darci una possibilità di avere degli occhi che dubitano, che ci diano delle altre possibilità di lettura del mondo. Questo è un disegno di un bambino di 7 anni e rappresenta il carcere. Prima abbiamo parlato delle istituzioni, il carcere, l'ospedale, il manicomio. E voglio studiare queste immagini con un bambino come si rappresenta il carcere, in cui in questo caso c'è suo padre con la palla a piede, con i capelli dritti, che saluta il figlio che lo va a trovare e ciao ciao papà, è un aspetto affettivo di questo bambino. Questa è una rappresentazione di come un bambino di 7 anni si immagina in carcere. L'altro disegno è di un altro bambino sempre di 7 anni, che si chiama, di 9 anni, che si chiama Alice, e Alice rappresenta questo è un laboratorio che viene fatto nelle scuole sul concetto di lontananza. Allora, sul concetto di lontananza si chiede di esprimere quale emozione si provoca quando si vive una situazione di lontananza e di separazione. Per cui molti bambini scelgono di rappresentare la situazione dell'ospedale perché è quella che hanno vissuto, cioè i bambini a volte vanno in ospedale perché o loro stanno poco bene, oppure il papà, la mamma e il nonno sta poco bene. Quindi l'ospedale è un'istituzione di cui io vado a fare tanta esperienza. E qui per esempio c'è il bambino che è stato male, si ricorda che la nonna è stata male in una situazione in cui i genitori non erano presenti e la nonna ha telefonato ai genitori che erano a Milano, mentre loro erano in vacanza, e dice: Alice sta molto male. Ok, veniamo, dice Alice rappresentata con il termometro in bocca che sta male, con vicino il fratellino che si preoccupa di lei. Tutto ok, Alice. Poi arrivano i genitori e dice: tutto bene Alice, siamo venuti da Milano in Liguria perché scusa se non c'eravamo, eravamo appena. Allora c'è il papà con lo stretto del pronto soccorso, la mamma che arriva e eravamo via per lavoro. Ecco, questo concetto di lontananza viene molto vissuto dai bambini e loro comunque hanno delle antenne molto, molto sviluppate, per cui nelle varie situazioni capiscono molte più cose di quello che noi pensiamo. Passiamo dai bambini a Luca. Questo sono, è un laboratorio che è stato fatto a Bollate, quindi entriamo in un'altra istituzione di cui abbiamo parlato prima, che è il carcere, in cui è stato chiesto a un gruppo di detenuti di fare la salma del proprio corpo, che poi è stata fatta e tagliata in polistirolo, e il tema era l'evasione, cioè come voi immaginate, quale posizione voi immaginate di avere nel momento in cui cercate di evadere da questo posto. E sono state realizzate tante sagome e ciascuno ha immaginato una sua posizione, dopodiché le hanno colorate e sono state esposte una volta in la curva di un posto vicino a loro. E combinazione questa è stata esposta su una colonna in cui c'è scritto casa, auto, lavoro, tanto domani muore. Combinazione è stata messa lì. E il concetto di evasione ci è sembrato molto indicativo a livello esistenziale. Poi arriviamo al laboratorio che tengo io con un gruppo di persone che ormai conosciamo da tanto tempo. Questo è Luigi. Luigi ha 48 anni e riesce molto bene a esprimersi attraverso il disegno, attraverso i colori. In questo caso ho scelto due disegni particolarmente significativi, questo è il tempo perduto e poi c'è il tempo ritrovato. È Luca. Luca, altro. Tempo ritrovato è più indefinito, ma comunque molto rappresentativo anche questo. Per fortuna non c'entra a casa. Quindi il ritrovamento di senso e di relazione in questi livelli. Quello che volevo, la persona che volevo, di cui volevo parlare un po' di più stasera è invece Aldo, che ha 58 anni e di cui vi leggo, no, Aldo 53 anni, è siciliano, ha avuto diagnosticati dei grossi problemi a livello mentale, 2 anni fa ha tentato e quasi ci è riuscito il suicidio nella casa popolare che gli avevano assegnato dopo un periodo passato in un soggiorno obbligatorio in un centro di riabilitazione, perché lui aveva tentato di uccidere la moglie per gelosia. Praticamente l'hanno trovato, la moglie si è trovata le mani al collo mentre dormiva e allora, visto che questa cosa andava avanti da tanto tempo, l'ha denunciato. Perché lui, siciliano, era molto molto geloso della moglie, del tipo che quando andava al supermercato diceva alla moglie, l'accompagnava sempre perché era geloso dei commessi, del cassiere, di quell'altro che facevano il corso, che salutavano in modo carino la sua compagna. Ha avuto un figlio grande e ha conosciuto una combinazione di ex moglie, ora sono ormai separati, dopo che lei aveva rubato il portafoglio a lui. Era stato un colpo di fulmine. Quindi lei, che era aveva trovato il portafoglio a lui e poi si è innamorata di lui. Di questo siciliano affascinante e che aveva come chiave caratteristica il fatto di credersi il figlio reale di un ex grosso banchiere milanese che Cuccia. Lui si crede il figlio di questo banchiere che reggeva Mediobanca, che era uno dei più potenti uomini. E quindi a lui ha pensato, pensa di aver lavorato nelle principali istituzioni bancarie, di aver gestito dei patrimoni immobiliari grandissimi e questo premio il suo disegno, lui ha fatto se no la quinta elementare, per cui il suo italiano è un po' particolare, però per far vedere che lui sa tutto di finanza, spesso fa grafici, diagrammi, torte, società quotate, andamento della borsa e quant'altro. Poi l'altra sua idea che torna spesso è quella femminile, e questa dovrebbe essere l'ideale della moglie, che disegna sempre molto. Quello che mi interessava far vedere oggi è il suo concetto rispetto alle case e al patrimonio immobiliare. Lui rimane molto colpito, sempre molto colpito, delle case, soprattutto ha avuto finalmente questa casa popolare, che c'è stato poco, che per il fatto ha cercato di suicidarsi, quindi è attualmente in una comunità, e delle case li colpivano le case dei ricchi e le case popolari. Queste per esempio sono due case popolari molto mal ridotte, perché i proprietari di casa non fanno quelle manutenzioni che dovrebbero fare. Quindi vedremo poi dopo. Queste sono due case. Ecco, questa è la sua casa ideale, in cui c'è l'interno della casa, la piantina, il bagno, l'ingresso, la palestra, la sala per gli ospiti, due camere a letto, la cucina e l'armadio a muro. Lui disegna spesso le piantine delle case ideali, dove finalmente è riuscito a avere l'assegnazione. Queste sono una serie di caseggiate, tra l'altro si mette sempre anche case piccole, case grandi, portone d'ingresso molto, fiori, tempo atmosferico, però lui si mette lì, arriva nel laboratorio e si mette a disegnare proprio preciso, non ha dubbi su quello che ha in mente di disegnare e continua soprattutto in bianco e nero fino alla fine. L'ultima immagine che vogliamo vedere, ecco, questo è un burattinaio della speculazione edilizia milanese. Edilizia milanese, per utilizzare, c'è un padrone di casa che guarda queste case che volutamente lascia andare e non fa manutenzione, perché è una persona che pensa soltanto al profitto, a guadagnare, a ridurre i costi e magari a mandare in malora degli immobili, così dopo ne potrà guadagnare di più. E questo è proprio il padrone che guarda, il padrone della casa che guarda queste case che vengono lasciate andare. Con l'ultima immagine invece ritorno ai bambini e con Sonia. Questa è una casa invece più allegra e vivace. Sonia ha 8 anni. È una Rom Sinti italiana che vive in un campo sotto, in un campo abusivo, dove suo padre, attualmente in carcere, ha costruito la casa per la famiglia, ha 2 sorelle, sua mamma si occupa adesso appunto di queste 3 figlie in questa casetta lasciata dal padre, ma che potrebbe essere sotto possibilità di essere distrutta da un momento all'altro, perché non è tanto, c'è la paura che venga sgombrata, e ha una grossa forza d'animo. La bellezza di questa casetta, pur essendo piccola, pur essendo con tutti i problemi che ha, la bambina la vede come un'esplosione di colori, di voglia di vivere. Tra l'altro, ultimamente, tanto per aggiungere una cosa all'altra, quando c'è stato il fatto che a Iazzone alcuni sono andati nei magazzini di Iazzone a prendersi quello che non avevano avuto, questa signora è andata anche lei lì, ha preso un materasso, è stata fermata dalla polizia ed è andata agli arresti domiciliari, per cui adesso deve andare a trovare il marito di corsa perché deve ritornare, perché poi altre figlie, comunque al di là delle case mi sembrava molto significativo il padrone di casa che vede di buon occhio la casa immobiliare che va in malora, perché però acquista valore, quindi un domani pur andando in malora gli va bene perché acquisterà valore e gli farà altre cose, e poi questa casa di questa bambina che è il suo mondo, è qualcosa che esplode nella bellezza, nel senso che il modo in cui i bambini vedono il mondo è veramente qualcosa che mette in dubbio che la realtà che il mondo ci rappresenta non sia quella. Che questa bambina non è disperata. No. Cioè è un disagio come sai raccontato adesso. Esatto, se no è un disagio, però è normale. Ok, l'altro, quel laboratorio invece appunto quello con le persone con problemi mentali è stata interessante l'esperienza perché è nato in un CPS di Milano con un gruppo di persone in cui veramente la cosa più importante era disegnare, dare senso e avere fatta relazione tra di loro. Questo gruppo è sempre stato visto un po' con sospetto dall'istituzione centro psicosociale, perché non aveva tutte le carte in regola, perché è nato spontaneamente, perché cosa succede? Se succede qualcosa chi ne risponde, chi è responsabile, non sei responsabile, quelle cose lì. Per fortuna abbiamo conosciuto una persona del comune che lavora in PAM, il centro di educazione del comune, alla quale ci ha offerto una stanza, per cui è stato molto significativo il fatto di uscire dal CPS e andare in questo posto vicino comunque, in cui in mercoledì ci ritroviamo ed è un posto nostro, non è un laboratorio di psicoterapia, ma un posto dove insieme a queste persone ci esprimiamo, diciamo, a spesso le persone prima mi sono incazzate, le persone che hanno litigato con la mamma, con i parenti, che stanno male, quant'altro, e si mettono lì, si disegnano insieme, si chiacchiera, si parla, e veramente sembrano un po' meglio di, diciamo, il sintomo va via e la creatività riesce a uscire. Laura invece, anziché le immagini, usa le parole del teatro, sempre attingendo alla creatività delle persone, ci illustra un attimo con che cosa. Sì, dunque, il laboratorio che teniamo è in un centro di riabilitazione ad alta assistenza, è un laboratorio di teatro che attinge alla mia esperienza di attrice e a tutto quello che è stato il mio percorso di analisi che continua ancora su di me. E sono tra l'altro infermiera in una di queste due strutture dove ho il laboratorio di teatro. E come si svolge ogni volta il laboratorio è, come dire, sì, da una parte strutturato, poi si gioca sempre molto all'improvvisa, anche nel proporre esercizi o nel proporre anche monologhi, dialoghi. Tutto quello che succede a parte viene riportato nel laboratorio teatrale da parte di queste persone spontaneamente, per cui non c'è una co-conduzione proprio a partire da come è la situazione mentale in quel momento. E soprattutto succede una cosa importante, cioè che queste persone quelle che assorbono di più la situazione del reparto, per cui tutto quello che succede all'interno del reparto, di tensioni tra il personale, tensioni a livello di decisioni, loro lo riportano con una grande sensibilità e molto rispetto, anche là dove a volte il confine, per esempio noi operatori ci ritroviamo a volte a utilizzare un corridoio che collega i due luoghi come se fosse un porto di mare, e quindi vengono dette cose, vengono date terapie a voce, oppure mansioni, oppure vengono date le consegne quasi sulle persone, sui pazienti, che vengono chiamati così poi, quindi domani tu, oggi tu, dove vai, oggi chi ti accompagna, eccetera. E loro, quando vengono al laboratorio, riportano questo stato di siamo in ballo, ma in verità non siamo noi gli attori. E poter sperimentare nel laboratorio teatrale il fatto che sei attore principale di una scena che puoi anche modificare e dove puoi interagire a partire dalla propria volontà, dal proprio desiderio, questo è uno scarto importante. Poi che rimanga come una cosa vissuta anche per pochi minuti o che rimanga anche per le due ore del laboratorio, questo non è dato controllarlo. Certo, noi, almeno io, vado a scrivere in cartella quello che è per me la metafora di quello che ho visto, per cui se una persona ha tenuto conto di un confine nella gag che è stata proposta, io lo vado a trascrivere come un'attitudine e una possibilità che si è data a questa persona che in altri campi, cioè su nel reparto, non si darebbe. È come dire un osservatorio quasi molto molto, mi chiamano anche un pochino a volte troppo preciso su delle cose che non si possono notare sempre per quanto riguarda la conduzione di un laboratorio teatrale. Però l'esperienza dell'analisi mi aiuta a vedere anche piccoli passi, che sono i più importanti, ecco, dal mio punto di vista, anche perché non sono medico e quindi non vedo l'aspetto così in toto della persona, lo vedo proprio lì nello mio specifico del laboratorio. Poi quando torno ad essere infermiera, ecco, faccio parte di una struttura importante, di un'istituzione che mette un programma sulla persona, mette un progetto terapeutico, si impegna nel trovare la casa o con protetta oppure la struttura a media protezione oppure la struttura ad alta, cioè ci sono tante situazioni in cui la persona affetta da diagnosi di malattia psichiatrica sperimenta. Io dico sempre che nel laboratorio di teatro si può fare esperienza di una possibilità di sé che dovrebbe, come dire, essere utilizzata di più come strumento, però lo dico io che sono appunto infermiera, attrice talvolta cialtrona, per cui non neanche presa in considerazione più di tanto dalla struttura dove lavoro, e di esempi però di tante cose scritte ormai da 16 anni ce ne sono tanti documenti, tante epifanie, tante parole dette come se fossero niente e invece poi sono veramente dei mondi. Ecco, questa è la mia esperienza. Io poi ho un materiale di monologhi, abbiamo lavorato molto sul fumo, questa azione ossessiva del paziente psichiatrico, per cui una via l'altra, in ambienti comunque che vengono permessi, perché tutti fumano poi alla fine anche in queste strutture. E sì, 2 o 3 hanno smesso di fumare, c'è stato anche un risvolto salutistico da questo punto di vista. Ma quello che succede non è scientifico, purtroppo non è scientifico. Ecco. Io tra l'altro lavoro nella struttura dove ha lavorato sempre Denis Gaeta, non so se conoscete l'esperienza della stravaganza. Denis Gaeta era musicoterapeuta e ha fatto tanto lavoro, poi lui è artista a 360 gradi, ha portato in giro anche degli spettacoli importanti e lui stesso diceva che non era possibile a volte scrivere in cartella il dato clinico di resilienza acquisita da queste persone, perché non è così scientifico. Invece il nostro impegno, ma anche il suo lo era, è proprio quello di tirare fuori elementi quasi dimostrabili, ripetibili, perché il circuito dei laboratori artistici in questi ambienti è fondamentale, e l'arte, la cultura sono veramente elementi fondanti del pensiero e devono essere tenuti di conto anche nel circuito economico della sanità, della salute, tutto quello che noi diciamo da anni, ecco, se questo è... dovrà essere, secondo me è soltanto a tempo, che è questione di tempo, ecco. Non c'è verso, non può essere diversamente, perché la persona affetta da diagnosi, ripeto, di malattia mentale è un'altra persona quando gli si può dare lo spazio di creatività. Poi certo bisogna avere una rete sociale che lo riaccolga, che lo sostenga, e noi come cittadini della rete sociale a nostra volta possiamo fare molto su di noi attraverso l'arte, la cultura, il sapere, quello che Antonio diceva che è la teoria che poi diventa pratica, è molto veramente una messa in atto di pensieri che sono costruiti diversamente. Uno sguardo diverso, ecco. Allora, tocca a me. Mentre sistemo il computer, stimolata da questi ultimi interventi. Sì, una mano. Allora, mentre sistemo, trovo il modo di vedere.